finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Mercoledì 23 dicembre 2020, le frequenze quelle di Radio Onda Rossa, gli 87.9 della banda romana e laziale, oppure il sito della radio www.ondarossa.info, che vi permette di ascoltare lo streaming di questa trasmissione, di tutte le trasmissioni della radio. www.ondarossa.info non è solo streaming, ma anche podcast. Trovate infatti tante registrazioni delle parti del palinsesto salienti di Radio Onda Rossa, delle trasmissioni, delle corrispondenze, dei commenti. Il click più importante che dovete fare è quello sul tasto sostieni, c'è una pagina che si apre. In questa vi è tutta una teoria di possibilità per voi tutte e tutte per sottoscrivere per la radio. Varie modalità, insomma, non avete scuse. Anche perché vi dico per in diretta, per radio, il numero del conto corrente postale da sempre. 6180 4001, conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. 00185, via dei Volci 56, Roma San Lollo. Insomma, niente cenone, niente Natale. Fate una cosa. Che potrebbe essere ritornare utile a tutti e a tutte. E c'è una parte di quello che avreste speso in impicci, droghe, robe da bere, regali di Natale, insomma, tutte cose che potrebbero lasciare il senso che trovano, anche se alle volte sono semplicemente il banalissimo senso della vita, fatta altrimenti di mero riproduzione di consumo e produzione. Vabbè, insomma, una parte di quanto risparmiato lo potete senz'altro devolere o devolvere, che sarebbe meglio, a Radio Onda Rossa. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio, nonché tutti i canali sui social che conoscete benissimo, io no. @ondarossa.info per molestare il sottoscritto o per mandare quelle che sono le vostre proposte sonore, i vostri incubi, i vostri deliri, le vostre produzioni o le produzioni di altri che ci volete sottoporre. Tra l'altro, manco l'abbiamo guardata la casella, magari c'erano delle... Vabbè, scopriamo tutti gli altarini. ce la guarderemo in diretta, vediamo di, se fosse arrivato, se mai fosse arrivato qualcosa di poter recuperare. 06491750, recapito telefonico di Onda Rossa, chiamate pure, chiamate quanto volete, non credo che qualcuno o alcuna. Sarà presente, però insomma noi la prendiamo sentimentalmente come un gesto d'affetto e benché non lo potremmo ricambiare, comunque lo apprezzeremo. Chissà, potrà diciamo tra virgolette trillare. Comunque, anche se non troviamo l'apparato che ci permette di ricevere gli eventuali trilli, vabbè, puntata da remoto ancora, puntata insomma sì, potremmo anche disquisire sulla parola natalizia, dai, diciamolo, perché poi magari lo andremo un pochino a sviscerare, null'altro, nient'altro. abbiamo ascoltato in partenza Deradorian, in arte Angel Deradorian, che è una cantatrice che ascoltiamo sovente da queste parti, proveniente dalla California. My sweet and sour, my lemon honey, I ran all the way home that night, ran all the way. Come tanti e tante da quelle parti, proveniente dalla diaspora armena, non tanto lei, ma diciamo i suoi antenati, ormai naturalizzati nordamericani. E poi ancora sotto la nostra voce, dopo aver ascoltato The Invisible Man di Deradorian, abbiamo ascoltato Supermarché, King Cruel, in arte Archie Ivan Marshall. Invece dalla megalopoli londinese, e forse questa è una delle poche eccezioni, non l'unica, questa notte, in quanto andremo ad ascoltare quasi tutta musica proveniente dagli States, o se non proveniente dagli States, ispirata al rock and roll di quella parte di mondo che lì ha preso forma e dimensione. Dicevamo puntata a natalizia, dove Natale sta per nascita, e nascita qualcosa di legato a, non tanto alle sincresie religiose che hanno di volta in volta dato importanza a queste giornate, ma alla loro collocazione, diciamo, spaziale, più ancora che temporale, che tengono appunto conto della rotazione del pianeta intorno all'astro che ci dà energia, e che data l'inclinazione dell'asse terrestre, proprio in questo momento comincia a riprendere vigore energetico per via dei raggi solari che incidono con un angolo sempre più vicino allo zenith a partire da questo momento, con un angolo sempre più vicino al massimo che si raggiunge poi a fine giugno. Questa è pura geometria, la geometria che però ha un profondo influsso sulla vita naturale in questo pianeta, ed è questa la cosa che ci interessa, ed è forse questa quella dimensione ancestrale che di volta in volta è passata da una cultura all'altra, conservando però questo spirito qua, che è affatto diverso dallo spirito natalizio consumistico che ha preso dimensione negli ultimi anni, o a quello tradizionale fatto di riti religiosi, che invece è un po' più antico. Noi stiamo ascoltando sotto la nostra voce l'ultima uscita di Rina Naldo, Roll Free, Roll Free del 2020, e un lavoro che in qualche maniera ha delle attinenze, se non altro così, associative, con quanto detto finora. Names on the North End, Woman. E questa è proprio la title track di questo lavoro del 2020. We are like the snow. We are like the snow. Rina Naldo e Raul Refri. We are like the snow. Da capo. We are like the snow. We are like the snow. We are like the snow. It was a London nightmare, but a Manchester dream. He was floating through the streets, falls in love with every queen. But it was motoristico, siamo entrati in atmosfere che potremmo ben definire natalizie, ma insomma bisognava farlo. Raw Honey, cosa c'è di ruvido, cosa c'è di miele dentro l'ultima produzione di Drug Dealer? Non ci uscirò. Drug Dealer, quindi produzione collettiva di Michael Collins, che va ad attingere in una tradizione abbastanza melensa della musica americana, con echi alla Eagles, alla Mamas and Papas, qualche rievocazione beatlesiana. E questa invece che va sotto la nostra voce, un inizio, un principio di disco quasi alla colonna sonora di film italiano anni 70, che forse è la cosa che ci ha intrigato. Dicevamo, cosa c'è di ruvido? Senz'altro il titolo, London Nightmare. Questa invece, You Have Got To Be Kidding. Chicoretti, Pizzi e Merletti, ma pure questo ci sta dentro 25 O'Clock. Anche perché, se non proprio su queste onde, però su suoni magari un po' più caustici e cattivi, andremo avanti per un bel po'. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 25 O'Clock. Qualcuno ha detto che sei scappato l'altra sera al bar, sai com'è fatta la gente che vive qua, beve troppo e non sta zitta mai, non ci far caso dai, piuttosto scrivimi sempre dovunque andrai, sei sempre una di noi, sempre una di noi. In uno zaino di scuola, ma il quartiere è stretto ed il mondo è grande, io non ho mai creduto per un istante che quel tempo all'idroscalo a contare le stelle, beh, sarebbe stato per sempre, sarebbe stato per sempre, per sempre, per sempre, il buio oltre la ferrovia ed i casini coi tuoi. Io so che non tornerai mai qui, che non tornerai mai qui, che non tornerai mai qui. tornerai mai qui, tu non ritornerai. Eccoci qua, allora, ovviamente Pat, avete ascoltato già diverse volte durante 25 O'Clock. Qualcuno ha detto che sei scappato l'altra sera al bar, sai com'è fatta la gente. Smalto un po' i... è il disco, l'EP più che altro, che è uscito proprio... Non ci far caso, dai. Non mi ricordo se durante il lockdown, quello di questa primavera, o subito prima. Forse subito prima. Sempre una di noi. EP di Pat, il buio oltre la ferrovia, la seconda traccia, che se non andiamo errati, sì, dell'EP che abbiamo ascoltato. Ovviamente Pat che c'ha come ispirazione, e lo ha ripetuto e detto più volte anche da questi microfoni della radio, tua madre è un'altra, anzi da quelli per l'esattezza. In fondo alla strada è sempre la stessa, profumo d'olio. Si ispira da una parte al cantautorame. Mi piace questa parola, cantautorame, c'è un non so che anche di... in cerca di guai, beh, qualcuno avrà dei guai. Dalla musica cantautoriale italiana e da tante ballazze di oltreoceano. Quindi lasciamo il buio oltre la ferrovia di Pat e ci spostiamo, ritorniamo di nuovo di là dall'oceano, The Raconteurs. La band con Johnny White da binario 2, con il mascara che cola, tu non hai chiesto e quindi di così grande che non entrasse in uno zaino di scuola. Don't bother me, The Raconteurs. Don't bother me, bother me. Swiping, all your groping and creeping. ritorniamo in voce. Thoughts, prayers, pensieri e parole per The Counters. And how long would you sleep? La band di Jack White e Brendan Benson. Dopo aver ascoltato Don't Brother Me, più vicina ai White Stripes di Jack White. There's a man who lives up the block. He doesn't even own a clock. Queste invece erano le sonorità che riconosciamo e che più erano attinenti al lavoro precedente del 2008, ormai passati 11 anni. Consoler of the Lonely. Queste ballate che risentono un po' di più della... della tradizione anglosassone tradizionale, poi riportata in un certo country americano con il banjo, i violini, eccetera. Poi uno spottino che ci ricorda, dopo aver lasciato The Counters, lo spostino che ci ricorda il 31 sotto Re Bibbia, come ogni anno di Radio Onda Rossa. E poi passiamo e continuiamo su queste sonorità di rock sudista con i Moe. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. La puntata del solstizio d'inverno. Like I'm Sullivan Ballou. Un minuto alla volta si scalerà. Recipe for blue, like it's 1862. Il tempo della luce. Almeno da questa parte del pianeta. Maybe I'm just a castaway. Or a poor boy led astray. E io, guarda, vabbè. Poi dici che c'è il retropensiero, eh. Vabbè, non mi fa dire, cercavo di fare uno più uno, insomma. Sentiamoci a Counters che è meglio. Sono in carcere da quasi 4 anni. Sono una signora di più di 50 anni e sono 2 anni che ricevo la vostra agenda e il quaderno. Mi sono molto utili sia per appuntarmi le note, sia per leggere lettere che vi mandano e le ricette che qualche volta ho fatto. Il mangiare fa letteralmente schifo. L'unica cosa che funziona era la sanità, ma adesso non più. Pensate che per andare dal dentista passano mesi e se tu hai mal di denti ti danno tachipirina o brufen, altrimenti aspetti quando ti chiama il medico per farti dare l'antibiotico. Per qualsiasi dolore solo brufen e tachipirina, tachipirina e brufen. Per le fisioterapie non se ne parla. Io sono in lista da maggio e fino ad oggi non sono ancora stata chiamata. Qui puoi morire tranquillamente, in grazia di Dio.

Moe, una jam band con un suono molto vicino al rock sudista, attivi dal 1992 fino al giorno d'oggi. Rob Drack, Chuck Garvey, Al Schiner, Jim Rowlin e Vinny Amico. Questo lavoro è del 2003. Ed è uno di quei dischi che si ha grande piacere di ascoltare, manco ve lo dico, soprattutto in viaggio. Non c'è più l'usanza di portarsi i CD o le musicassette da mettere nello stereo della macchina, però insomma, questa era una di quelle cose che si mettevano nel cruscotto, dai. Queste lunghe cavalcate. Dopo Wormwood, questa traccia che avete ascoltato dei Moe, e Ok Alright, che è la traccia che avete ascoltato prima di questa, un altro breve interludio per i Moe, Rumble Strip, e poi passiamo, il passo sarà breve, a sonorità forse un po' più variopinte, che comunque si collocano sulla stessa strada dei Moe White Demon, una delle altre band di questo genere che amiamo molto ascoltare, non necessariamente in auto, va bene anche in bici. Thank you. Benjamin. Ci ascoltiamo la Greste At The Form e poi Drag. piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Una puoi comprarla, una regalarla, per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla, l'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Scarceranda 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info. E ritorniamo in onda. 25 o'clock, Onda Rossa. E c'è da dire che Kento ci ha preso gusto per il secondo anno. Graditissimo spottino per la Scarceranda. E vabbè, è andata così stasera. Avevamo iniziato nella preparazione della lista proponendoci di dire cose profonde, interessanti. Forse presuntuosamente, insomma, semmai da queste parti si sono dette cose interessanti e quanto mai profonde. Comunque, dovevamo mandare delle cose che ci ricordavano l'Africa. Siamo finiti negli Stati Uniti, ma questo un po' perdersi dentro la discografia che vediamo di anno in anno crescere e andando ad attingere su YouTube solo quanto ci proponete voi, o semmai no, penso quanto ci proponete voi. Così, una deformazione professionale quella di mandare musica di cui abbiamo disponibilità su disco. Siamo capaci di ascoltare musica così. Non so se riusciremo a riproporre e a suggerirvi qualcosa in merito. Voi ascoltatela come vi pare e più vi piace. Noi vi diciamo che questi sono dei Dirty Job, non vengono dagli Stati Uniti ma proprio qua, dalle nostre parti. Will It Like God, trottolare come Dio, da capo. Have an education and the world is yours. That's what all the people say. Think about the day you'll be a graduate and I'll have a head of success. With all due respect, I had a disagree. Don't ask me, I'll be a jerk. All I ever wanted was to ride my bike, teaching us and chasing girls, ha! Come and see me now, I'm with it like I got. And they're surprised, this is not a hobby, but my job. Every book and book, something I learned the hardest way. Watch your lady die for me while you're different like a slave. Sure I am.

Nel frattempo, diciamo, ormai ci siamo abituati con la tecnica della resilienza a fare il percorso a ostacoli, lo slalom in mezzo ai decreti amministrativi. Perciò quella che era prevista per ormai oggi, dal momento che sono passati 15 minuti alla mezzanotte, trasmissione speciale di Normale Follia natalizia, ecco, andata in onda oggi, come sapete, trasmissione che per molti anni a cui Salvatore ha fatto mixer con i ragazzi del Grande Cocomero. E invece il 25 dicembre la radionovela di Natale a cura di Io te l'avevo detto, dalle 16 in poi. Vi abbiamo fatto sentire che è uscita la Scarceranda. Vi abbiamo ricordato il 31 sotto le bibbie. Non vi abbiamo ricordato del calendario di Radio Onda Rossa, calendario con disegno di Zero Calcare. Radio Onda Rossa che è in ristampa addirittura. Radio Onda Rossa, Scarceranda, badate. La Pesus. Rimaniamo quindi in territorio statunitense, più non si può, con una band storica degli anni 80-90, di quelle rimaste sempre un po' nascoste dietro i grandi mostri sacri, Soundgarden, Nirvana, del grunge di quel periodo, provenienti dalla stessa area geografica, cioè da quel stato di Washington, da quella Seattle, che di lì a poco sarà anche luogo di un potente fermento, un fermento che poi si è riscontrato fin oggi con i movimenti attuali di inclusione antirazzisti degli Stati Uniti e anche per cacciare Trump. Non che quello che ci sia adesso sia meglio, ne siamo assolutamente consapevoli. Stiamo parlando di Screaming Trees. Screaming Trees, questa è Esk. Silence that you said is all you show, and I can't believe Quella di Mark Lanegan, a proposito di voci maschili o femminili, che è emblematica. In special modo quando si tratta di ballads. Dirt's Bell, Peace the Valley for Me, Screaming Trees, 1992, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, è tutta da capo. Well, I'm tired and so weary, but I must go. Changed from this creature that I am. Well, he's in the valley. nothing. Republican or a Democrat, a liberal fascist, full of crap. I'm nothing, I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but everybody everywhere knows that I'm nothing. Politics and dirty chicks, I got no time for stolen sticks. Politics and dirty chicks, I got no time, I'm chasing chicks. I'm nothing. Everybody everywhere saying I'm nothing. Oh, there's nothing high, there's nothing low. Just being a nothingness is all flow. Are you gay, are you straight? Do you believe in love or do you believe in hate? I'm nothing, I'm nothing. Somebody somewhere saying there's something, but to everybody everywhere. I'm like a cloud, I'm free to be alone in a crowd. What's your reality? It's not real to me. What's your anomaly? It is my destiny. I'm nothing now, and I'm nothing free, 'cause being nothing is just being me. I don't change the chords anymore, the chords change by themselves. My best half retort, I'm in a resort town at the hotel. Accidenti, ci siamo caduti un'altra volta. Dicevamo, 40 anni di rock and roll sgangherato. Per quanto riguarda Violent Femmes, dal 1980, versione 2020, language. Hotel Last Resort, l'ultimo lavoro. Due collaborazioni del disco, tutte e due le stiamo ascoltando. I Am Nothing con Stefan Janowski, avete sentito l'alternarsi delle due voci, sempre molto simili a quelle di Gordon Gano comunque. E questa è la title track, Hotel Last Resort con Tom Verlaine, niente proprio di meno, che è lo storico leader, comunque vocalist, frontman, quanto cambia il linguaggio astruso che andiamo dicendo. Tom Verlaine, Vole Fama, Hotel Last Resort da capo. I don't change the chords anymore, the chords change by themselves. Luxury affords any bore, turns towards all the whistles and bells. I can't even remember my best past retort. I'm in a resort town at the Hotel Last Resort. Who did I not call? What did I not write? To sprinkle fall, green summer, winter, white summer, singing in another language, I think might be English. The ship is leaking, tonnage and tankage. They

E queste sono le rotondità di Health. Nothing good. Uscita 2020, Earth Dora. Time I did. So what the fuck is going on here? Tender-hearted love. I was always dreaming falsely. I must be waking up. Oliver Everett in arte Hills, il cantautore statunitense. Two grifters, that was all. Morning sun, a sweet surprise. Proveniente dalla Virginia, creatore delle più tristi canzoncine per bambini. Now I'm tristi, melanconiche e drammaticamente serie. I don't have any voice. You don't have any choice. It's best we get out of the way. Nothing new, but everything. Every day is brave. Anything can happen now. Nothing's ever safe. E ora doveva partire l'ultima uscita per calibro 35. Take a chance on love. Come al solito, replica da un disco. Web. Fatto sta che di calibro 35 amiamo avere i vinili. Abbiamo trovato la traccia, l'abbiamo proposta e scaricata, ma non si sente. Quindi la prossima puntata per calibro 35 sta lì. Calibro 35 in versione molto aggiornata, e perciò dopo il silenzio si parte così. 1972, sicuro. Here to fly, shy ladies, move ya! Nella galera l'unica stella che si vede è carabiniera. Nella galera l'unica luce che filtra il muro è buio, non è luce vera. Nella galera anche se fuori c'è il sole ti svegli sempre con la luna nera. Nella galera aspetti il giorno, aspetti e aspetti, ma è sempre sera. Odio la galera, con tutta la rabbia che stringo tra i denti. E sono libera ma sono prigioniera, se i carcerieri sono i veri delinquenti. Odio la galera, odio chi scrive le leggi con i guanti. E sono libera ma sono prigioniera di chi parla di pene riqualificanti. Odio la galera, io odio la galera, io odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Odio la galera, io odio la galera, io odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. I shy ladies representing and supporting con salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì, no. I promise I keep work love one day. Gotta talk about love, you say you love, why can't you show love? Every day by day people talk about love. Bravo. Olumizzi con la velocità e i ritmi, la capacità compositiva dei ragazzi. Che sanno fare musiche in un attimo, comporre grazie alle macchine. We wanna cross the border, got the father, mother, father. We hustle, we grumble, never stumble, not a. We looking. Vi ricordate quando si facevano le iniziative live? Se ne fanno ancora, sì. Vi ricordate quando ci si baciava ed abbracciava? Quando il corpo serviva per... comunicare quel che la parola non arrivava a dire. Proveniente dalla diaspora africana, Olumizzi e la sua band, la sua crew. Nanya kaicholo kaina gano fuma biko gwane ndilo si honyo bona chazanuzo ha chineke ngewa kaina yola vide by day nezifumo wana chitinya yini herwe kwe kwana obrone lapwa yina vrobe kaiga babuga oboni yela nyako bonye. Come ogni anno Radio Onda Rossa vi dà appuntamento per il 31 dicembre fuori da Re Bibbia, un appuntamento ancora più importante in un anno in cui le condizioni di vita per chi sta dentro sono sempre più dure, il numero dei contagi sempre più alto e un isolamento con l'esterno sempre maggiore. Ci vediamo all'angolo tra via Bartolo Longhi e via Raffaele Maglietti, dove ci sarà il consueto presidio. Troverete la litichiata propiziatoria, le scarcerando del 2021 e il calendario di Onda Rossa. Ci sposteremo poi al pratone del femminile in modo da poter fare un saluto a chi è reclusa e gridare che l'unica sicurezza è la libertà. Il 31 31 dicembre è da indicare, e quanto leggiamo anche dal sito della radio, il 31 dicembre è zona rossa, ma il presidio è confermato e autorizzato. In caso di controlli dovrete firmare l'autocertificazione indicando che state raggiungendo un presidio autorizzato e senza assembramenti. Precisazione utile e necessaria. Just to make things work up fine for us to live fine. Just to make things look good for us to live in a good condition. Good environment, good facility, electricity. Let's make one mind and live together. Peace of mind, let's live with a peace of mind. With unity, take me far. Africa to deal with, Africa to deal with. Olu Messi Mizu, Bravo Neil. Got it, got it. La programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce con 25 O'Clock rebotizzata, yeah. E si sente anche dagli scrocchi e dal cellulare che va a fare le sue interferenze. Seguirà la selezione e le repliche proposte dalla compagna automatica Sonata. L'incesto della radio per il giovedì prevede una certa roba, non sappiamo come e quanto sarà rispettato. Data, la data. Parole con biforcute, con doppio significato. E dato che appunto entra in vigore la zona rossa, quindi alle 8 rassegna stampa, alle 10 le nazionali, alle 14 tutta scena cinema ci sarà senz'altro, perché anche questa remotizzata. Attica Blues oltre alla Black Music pure crediamo come sempre ci sarà, le schiene del sole alle 17, mezzete sire nazionali della radio alle 18, tabula rasa e apostasia, chissà se i cuginetti avranno il coraggio. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, da chi ci ascolta dietro le sbarre, da e per tutti i migranti in cerca di fortuna da queste parti, anche loro costretti nelle tendopoli, nei ghetti o ancor peggio nei centri di reclusione per migranti. Cholo kaina gano fuma biko gwan ndilo si hon yo bona chazanu zo ha chine kengewa kaina yo love day by day nezifu mo wana chitinya yini herwe kwe kwana obone la po ayina vobe kai ga babuga obone yela nyako bonye gege ni tai biko li sa kwa ngewa kaina na ko boso bona na yo gengewa bonye kela ngewa bonye na yela nyaka. Bano money kilo day, ati wole day, won pe mi lo lumi day, legbe pyramide. Melo laye nye, aye yi kere go. Money kilo day, vanity upon vanity, no. Winning love gone, winning in the love gone. Aye yi yo love gone, melo lepe e gone. Money yo kere gone. Why you konde, why ye maya, bebe o te ton gone. And you melo. Got a family in Nigeria. We trust in Europe to pull for the tip. Just to make things work up fine for us to live fine. Just to make things look good for us to live in a good condition. Good environment. Good facility. Che dire? dire d'altro che vi auguriamo un buon solstizio d'inverno a tutte e a tutti. E ci risentiamo forse un altro mercoledì, chissà se il prossimo, non ci ricordiamo. Bella a tutti e a tutte, dai, sotto la luna comunista. I'll share our dreams under a communist moon.